Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'autista è già salito sul cassone e quando usciamo ha già scaricato una bicicletta stranissima. La riconosciamo subito perché un paio di settimane prima l'aveva vista tutto il mondo, vincente, a Città del Messico. Mi chiamo Fulgio Morbi, ho 46 anni, sono di Cantù, convivo da tanti anni con la mia ragazza, faccio il falegname e mi piacciono le moto. Tra le varie cose che abbiamo imparato facendo questo programma e raccontando storie tutti i giorni, ci sono due che sono sopra tutte. La prima è che le storie girano e spesso e volentieri una storia, se non ti arriva in un modo, ti arriva in un altro, o tramite un'altra via o tramite un'altra persona che magari non è quella che l'ha vissuta. La seconda invece è che storie chiamano altre storie. Questa puntata ne è l'esempio, perché noi la stagione scorsa raccontammo un episodio e sentimmo al telefono in diretta uno degli sportivi più famosi d'Italia, probabilmente, che era Francesco Moser. Un ascoltatore, una persona, sentendo quella puntata, ha detto: ma sai, io c'ho una storia legata a Francesco Moser, e ci ha mandato questo racconto qui che sto per raccontarvi. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui. Oggi parliamo di oggetti che in qualche modo sono una reliquia, per quanto profane, per quanto non abbiano a che fare con la religione. Ci sono oggetti, soprattutto oggetti sportivi o oggetti legati a personaggi o a fenomeni di culto, che in qualche modo rimangono con noi e ce li portiamo dietro come se fosse una reliquia. 349-238-6666, Facebook o Twitter. Giuliano scrive: ho con me da sempre nel portafoglio un plettro di Franco Mussida, scappatogli dalle mani durante un concerto della PFM. Non sono mai stato un fanatico, ma quel plettro sento che mi porta fortuna. 349-238-6666. Quest'estate, per motivi di lavoro, ho intervistato Lorenzo Cherubini, Giovanotti, lo dico solo per fare rosicare un po' Paolino Corleoni, e mentre parlavo con lui ho incontrato Saturnino, e Saturnino, che è un personaggio molto simpatico, a un certo punto mi ha detto: tieni, ti regalo questo, e ha tirato fuori dalla tasca un plettro con sopra scritto Saturnino, e io ero felicissimo, ho detto: ah, che figata, mi regala il suo, cioè, prima tra l'altro di salire sul palco, al punto che sto per dirgli: ma e tu come fai? E un secondo dopo mi dice: ai concerti questi li butto a mazzi sul pubblico. E quindi lì subito mi è scesa la catena della reliquia, ma ringrazio comunque Saturnino per quel plettro, che non ho sempre con me come Giuliano, ma ho da qualche parte in casa. Pierluigi: conservo come una reliquia una scarpa da calcio appartenuta a Lentini. Gigi Lentini, Gigi si chiamava, te lo ricordi? Torino e poi Milan, capello lungo, il caso Lentini, c'era qualcosa? Beh, Franco Piantanini lo sa sicuramente meglio di noi. Quando, giusto, c'entravano soldi sporchi. Quando giocavamo insieme nella giovanile del Torino, era un idolo per me e non l'ho più sentito. Quindi Pierluigi, c'ha una scarpa di Lentini a casa. 349-238-6666, raccontiamo di reliquie sportive e non. Questa storia però, la storia che stiamo per raccontare, quella di Fulvio, ha a che fare sì con un oggetto particolare, ma con un oggetto che in qualche modo ha avuto una storia B, un'altra storia oltre a quella che conosciamo tutti. Ho appena sentito il podcast della puntata in cui Francesco Moser parlava del suo record dell'ora del 1984 e della sua bicicletta. Io voglio raccontare qualcosa che riguarda quella bicicletta e me. Devi sapere che la squadra per cui correva Francesco Moser era sponsorizzata dalla Supermercati Brianzoli, con sede a Cantù, vicino a Como. E sempre a Cantù, oltre che la sede del magazzino, c'era anche un negozio nel quale io, fresco sedicenne, prestavo orgogliosamente servizio con la qualifica di fruttivendolo. Un sabato sera di febbraio del 1984, ormai all'ora di chiusura, mentre svolgevo un lavoro della massima importanza e delicatezza, cioè radunavo i carrelli sparsi sul piazzale, parcheggia un camioncino davanti all'ingresso merci. Ed io, già arrabbiato perché mi intralciava al lavoro, mi sono avvicinato e ho chiesto all'autista cosa volesse scaricare a quell'ora strana. L'autista mi ha messo in mano una bolla di consegna e ho notato che l'indirizzo era sbagliato e avrebbe dovuto andare in magazzino. A quell'ora, però, non avrebbe trovato nessuno. Quando abbiamo visto che era quella bicicletta, il mio capo ha fatto finta che fosse quello il posto giusto per consegnarlo. L'autista è già salito sul cassone e intanto vado a chiamare il mio capo, grande appassionato di ciclismo. Lo trovo e quando usciamo l'autista ha già scaricato una bicicletta stranissima. quella bicicletta. La riconosciamo subito perché un paio di settimane prima l'aveva vista tutto il mondo, vincente a Città del Messico, durante il record dell'ora. Al mio capo non sembra vero e a me sembra uno scherzo. Il mio boss non fa una piega, fa finta di niente, firma la bolla e saluta l'autista senza dire che avrebbe dovuto scaricarla da un'altra parte. Mi fa l'occhiolino, rendendomi complice di quella specie di rapimento involontario. Entriamo trionfanti nel negozio ormai deserto, bicicletta alla mano. Subito diventa l'attrazione della serata da parte di tutti i miei colleghi, tutti i miei coetanei ed io. Io mi sento un eroe per aver scaricato la bici dei record di Francesco Moser. Il mio capo ha le lacrime agli occhi, manda a chiamare sua moglie. L'altro mio capo cristona e continua a ripetere che non dovevamo scaricarla e che avremmo passato un guaio. Ma l'emozione è troppo forte, anche per lui. La bicicletta era stranissima. L'abbiamo provata, che eravamo tutti, per cui una quindicina di persone, nelle corsie del supermercato, tra i detersivi e i biscotti. Insomma, bisogna provarla. Ha dei pedali stranissimi, mai visti, senza il posto per appoggiare il piede, ma chi se ne frega. A turno l'abbiamo provata tutti più volte, girando per le corsie vuote dentro il supermercatino, finendo col festeggiare un colpo di fortuna inaspettato come se fosse un compleanno o la festa del paese, dove tutti hanno lo stesso motivo per essere felici. E dopo aver passato la serata più surreale della mia ancora fresca vita, non vedevo l'ora di arrivare a casa per raccontare quello che era successo ai miei e poi uscire la sera per raccontarlo ai miei amici e farli schiattare di invidia. Ma così non andò. I miei non fanno una piega, manco un plissé, non gliene frega niente. I miei amici in compenso, oltre a non credermi, mi prendono a pernacchie, sberleffi e insulti pesanti. Poco male, la bicicletta di Moser è rimasta appesa nel negozio a mo' di trofeo per una settimana, diventando una reliquia, come la lingua di Sant'Antonio, e un motivo di pellegrinaggio dei paesi vicini. Sono passati 30 anni, ormai sono un uomo oltre i 40, il supermercatino non c'è più, da un pezzo, ed il mio vecchio capo è morto. Ma quella bicicletta lo sa, che oltre alla gloria dei record, una sera di tanti anni fa, ha fatto emozionare fino alle lacrime un gruppetto di ragazzi di provincia, lasciando un ricordo indelebile nel mio cuore. Adesso magari lo saprà anche Moser, che la sacralità della sua bici è stata violata a sua insaputa. Chitarra di Jimi Hendrix, il guanto di Michael Jackson, il casco di Ayrton Senna, la pipa di Pertini. Gli oggetti appartenuti alle persone famose ci fanno sognare e creano il paesaggio per un'iconografia contemporanea. Se capitate a Napoli, su quella via che si chiama Spacca Napoli, c'è un tempietto votivo con tanto di articoli di giornale e rosari in cui è conservata la ciocca di capelli miracolosi di Diego Armando Maradona. Tutti i giorni ci mettono i fiori, una sciarpa pulita del Napoli e c'è sempre una lucina accesa, come una reliquia profana. Chi non ha mai guardato con curiosità le magliette dei calciatori appese alle pareti di qualche ristorante? Io sono un tifoso, ma il mio oggetto feticcio, quello che mi ha fatto sognare per tanto tempo, quell'oggetto che ha riempito la mia immaginazione, col calcio non c'entra niente. Ero un ragazzo negli anni in cui, appena tornavi da scuola, mentre sfilavi lo zaino dalle spalle e sbottonavi il giubbotto, prima ancora di aprire la porta urlavi alla mamma: «È già sceso?» Ero un ragazzo che per un certo periodo sapeva tutto di lamine, scioline e attacchi. Ero un ragazzo che per un certo periodo si intendeva di neve, neve tenue, stellata, esagonale, neve mista, neve in fiocchi. La mia passione per il meteo arriva proprio da lì, dal bollettino delle nevi di quegli anni. Il mio sogno sportivo è stato Alberto Tomba. Tutti quelli della mia età, per qualche stagione, sono totalmente impazziti per lo sci. Non vedevamo l'ora che arrivasse l'inverno per indossare le giacche a vento dai colori sgargianti come le sue, e sulle piste c'era chi imitava Tomba, che in una pubblicità scendeva in pantaloncini corti e canottiera attillata gialla e scarponi blu elettrico. Ma la mia passione, come tutte le passioni, ha una genesi ben precisa. E parte da lì, parte dal mio amico Federico. Il mio amico Fede aveva uno zio, lo zio Mario. Lavorava sulle piste col gatto delle nevi. Spesso andavamo a sciare insieme, ovviamente. Lo zio ci metteva sulla motoslitta e la faceva correre a una velocità folle in salita. Quando decideva lui, ci faceva scendere e se ne andava. A noi, prima di scendere in fuoripista, sembrava di essere due avventurieri su una montagna inesplorata. E una sera, lo zio Mario ci invita a casa sua e ci chiede qual è la cosa più bella che avessimo mai visto. Lo zio Mario era un maschio single quarantenne e io e il Fede due ragazzi di 16 anni. Come tutti i ragazzi di quell'età, avevamo una sola cosa in testa. Ma quella sera lo zio Mario ci dice: «Invece di fare i fenomeni, venite con me». Scendiamo in garage e tira fuori una borsa azzurra con sopra un po' di scritte. «Guardate, guardate cosa c'è qua dentro. È la roba più bella che abbiate mai visto, ve lo dico io». Era una borsa della nazionale di sci, autografata da tutti: Ghedina, Rungaldir, Werner Peratoner e soprattutto lui, Alberto Tomba. Ma ancora non immaginavamo che, aprendo quella borsa, le nostre vite sarebbero state segnate per sempre. Dentro quella borsa c'era una fascia para orecchie, dei guanti, una mascherina e un paio di scarponi blu elettrico. Nel freddo del garage tocchiamo e proviamo ogni oggetto. «Li ho accompagnati al sestriere per la preparazione», ci dice lo zio Mario, facendolo indifferente. «Questa roba me l'ha data l'Alberto. Ho sulla fronte la fascia paraorecchie di Tomba. E da che ridevo col Fede per la fronte bassa che mi faceva, appena il Mario pronuncia il nome Alberto, drizziamo le orecchie. Tienila per ricordo. Mi ha detto Tomba di tenerla, ma la regala a voi», dice il Mario. E imita un imbarazzante accento bolognese che solo due sedicenni di Novara possono cascarci. Fede torna a casa coi guanti, io col paraorecchie. Non abbiamo mai saputo se le cose sono andate davvero così oppure no, ma quella fascia per me e quei guanti per il Fede, che fossero davvero di Tomba o fossero stati trovati su qualche pista dallo zio Mario, sono stati la nostra personale reliquia del santo. City. È una foto romanticissima, quella che ci ha mandato Fulvio, che trovate come al solito sul nostro sito Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. C'è un tramonto incantevole alle spalle sue e della sua fidanzata. Immagino, adesso non ogni volta che c'è un ragazzo e una ragazza, penso che siano fidanzati marito e moglie, però insomma in questo caso si abbracciano. Hanno su un bel pile di ordinanza, quindi evidentemente fa abbastanza fresco, e sono soprattutto al tramonto, il mare e sul ponte di una nave. Pronto Fulvio? Sì, ciao. Ciao, su che nave siete? Beh, un traghetto, è una foto che abbiamo fatto in Norvegia quest'estate. Io credevo fosse tipo una nave da crociera. No, non sono tipo da crociera. Infatti, effettivamente la faccia e il pile non è da tipo da crociera, devo dire. Invece veniamo alla tua storia. Prima fuori onda con Fulvio facciamo quattro chiacchiere su quanto a me piacesse questa storia, su quanto mi fosse piaciuta sin dalla prima volta che l'ho letta, e Fulvio mi ha detto: sì, vabbè, ma è una piccola storia di provincia. Però Fulvio, a quanti capita di vedersi recapitare una sorta di reliquia della storia dello sport, cioè la bicicletta di Moser? A nessuno, infatti è capitato una volta sola, e quando si sono accorti che avevano sbagliato indirizzo nel consegnarla è venuto fuori un putiferio. Dopo quanto si sono accorti? Ma dopo, beh, è successo questo un sabato sera, al martedì, però ormai era stata sequestrata, è rimasta avvitata sul banchetto della salumeria di quel supermercatino per una settimana. Perché allora ricostruiamo un attimo: c'è il supermercato, tu lavori all'interno del supermercato, giusto? Fai una cosa. Era il mio primo lavoretto da ragazzino. Ok, e arriva questo corriere che scarica sta bici. Ed è divertente che il tuo capo capisce che è la bici di Moser, fa finta di nulla, come dire: ah, certo, sì, perfetto, l'aspettavamo. Anzi, siete anche un po' in ritardo. Esattamente così, ha capito subito, ha fatto finta di niente, mi ha zittito, mi ha detto: stai zitto. E invece scusami, la tua delusione quando torni a casa è: né i tuoi genitori né i tuoi amici sono o interessati o credono a questa storia? Non sapeva niente nessuno, anzi i miei addirittura non sapevano nemmeno chi fosse Moser, quasi. I miei amici invece mi hanno preso in giro tutta sera, sai come funzionano per i ragazzi, le parolacce volano. Ma tu hai qualche foto, avete scattato qualche foto? No, forse il mio vecchio capo o i suoi figli magari ce l'hanno, io no, non ce l'ho una foto. Invece, no, sicuramente il mio vecchio capo ce l'avrà una foto. Ce l'ha. Invece dici che fate un giro su questa bicicletta, com'era sta bicicletta, andarci sopra? Era tanto diversa da una bicicletta normale, era più complicata? Completamente diversa, non aveva i freni, tanto per dirne una. Okay. Era tutta sbilanciata in avanti e non aveva il cambio, per cui una pedalata faceva 30 metri, era incredibile. Era a scatto fisso, giusto? Era sì, di sì, quelle sì. Che cioè, continuano a girare i pedali fino a che, con quelle che vanno di moda oggi sostanzialmente. Con il manubrio girato al contrario di come di solito si usavano i manubri delle bici da corsa tanti anni fa. E visto che tu ci hai mandato questa storia proprio perché, come ogni tanto succede, no? Qualcuno sente una storia, gli viene in mente una storia simile o satellitare da raccontare. Tu ci hai mandato questa storia perché avevi sentito la puntata della scorsa stagione, direi, giusto? In cui Moser ci raccontava Sì, mi è venuto in mente quando ho scaricato la tua puntata e ho sentito Francesco Moser che questa storia mi era passata nel dimenticatoio. Sono andato proprio a ripescarla in fondo ai ricordi di quando ero ragazzo, questa cosa qui. Ecco, Francesco Moser, che non è tipo che si sente spesso, stranamente. No, è vero, non è uno... Mi ha fatto venire in mente questa cosa. E secondo te Francesco Moser ha mai saputo che sta bicicletta è stata usata nel parcheggio di un supermercato ed è rimasta appesa sopra il banco della salumeria per qualche giorno? Per me no. E invece abbiamo idea di dove sia finita adesso? Dov'è questa bicicletta ora? In qualche museo? Ma sarà in qualche museo, non so che fine abbia fatto, anzi adesso farò una ricerca, ma penso che sia in qualche museo di qualche... non so. Fulvio, tu cosa hai fatto invece negli anni che sono passati da allora a oggi? Hai smesso di fare ovviamente il lavoretto al supermercato? Sì. E niente. Cosa fai? Faccio qualcosa che assomiglia al falegname. Che non è proprio il falegname, niente, lavoro, giro con la moto, questa è la mia vita. In che senso, scusa, fai qualcosa che assomiglia al falegname? Perché non faccio proprio il falegname, programmo le macchine che poi fanno i mobili all'interno di una falegnameria c'è la figura di quello che programma le macchine, che non ha a che fare con la colla, con la... Fa il programmatore di grandi macchine. Ma avete ancora quei banconi? Io tempo fa, convinto dalla mia fidanzata, ho comprato a un mercatino dell'antiquariato, pagando una cifra che non ti dico, questi banchi da falegname, sai, quelli tutti in legno con la, con la pressa. Ma esistono ancora ste robe? Sì, ci sono. Cioè, nelle tutti vecchi, non so come mai che sono tutti vecchi. Nelle falegnamerie moderne esistono ancora? Certo, okay. Sono indispensabili. Allora facciamo così, fuori onda, io ti dico quanto l'ho pagato e tu mi dici quanti soldi mi ha rubato quell'adorabile ragazzo della provincia di Bergamo. Io intanto ti ringrazio tantissimo, Fulvio, spero che in qualche modo Moser sappia questa storia. Noi magari facciamo in modo, magari attraverso Franco Piantanida, quelli dello sport, di fargliela sapere. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, ciao. Ciao Fulvio, ciao. Alessandra scrive sul profilo Facebook di questo programma che Voi Siete Qui Radio 24. Per un periodo della mia vita ho avuto una relazione con un giovane della mia città che poi è diventato un personaggio famoso della TV. Ora conservo il fazzoletto che lui mi regalò una sera in cui piangevo in continuazione come se fosse una reliquia. Questa di Alessandra sembra la storia di... Otello, fazzoletto, no, il fazzoletto. Otello regala un fazzoletto a Desdemona. Ok, non fatemi dire sta roba, mi guardate come se fossi il professore, poi mi sento un imbecille. Otello regala il fazzoletto a Desdemona e le dice: tieni con te questo fazzoletto, pegno del mio amore, bla bla bla, che è una reliquia di fatto, cioè un oggetto d'amore che ti dà il tuo marito in quel caso. E quel bastardo di Iago un giorno glielo sottrae tramite la moglie, che fa tipo l'assistente di non so se da tempi di Shakespeare si poteva fare l'assistente di qualcuno, però fa la donna di servizio a casa di Otello. Questa Emilia ruba il fazzoletto di Desdemona, lo dà a Iago, che lo dà a Cassio, che è un giovane dell'esercito di cui Otello è già un po' geloso. E quando Iago va a dire: mio signore, sapete il vostro fazzoletto? Non ce l'ha più Desdemona, ce l'ha Cassio. Questo impazzisce e fa quel macello che tutti conosciamo. 349-238-6666. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, a partire da Fulvio, che è un personaggio straordinario, fuori onda prima della puntata ma ha detto delle cose molto divertenti che magari farò confessare a lui in un'altra occasione. Vi dico solo il perché noi abbiamo segnato il suo nome. Spesso quando arrivano le mail non sappiamo come si chiamano di cognome le persone, e con Margherita usiamo come cognome quello che c'è scritto nella mail, no? Che di solito è fulvio.qualcosa, dici sarà il cognome. Sulla sua mail era fulvio.bistutigre, credevamo fossimo il cognome, invece ha detto che quella roba lì arriva dalla visione di film pornografici di quando erano bambini, ma non ho capito per quale motivo arrivi da lì. Grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paulino Corleone. Grazie soprattutto a Fulvio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Fabrizio, sono di Viareggio. La storia di lunedì è la mia ed è la storia di un giovanissimo trasportista e di uno dei suoi primi viaggi. Questa è la mia storia e io sono qui.